con Gisella Calabrese, direttrice artistica dell'ottava edizione di Visioni Corte International Short Film Festival a Gaeta dal 21 al 28 settembre 2019. Gisella, ben trovata. Ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Raccontiamo cos'è questo festival. Dunque, Visioni Corte è un festival internazionale di cortometraggi, ha cinque categorie in gara, i film provengono da tutto il mondo, devono avere una lunghezza massima di 20 minuti e prevedono le categorie della fiction italiana, fiction internazionale, il documentario e l'animazione. E quest'anno abbiamo inserito la nuova categoria corto virtual, ovvero per i film pensati solo ed esclusivamente per la realtà virtuale a 360 gradi, per cui vanno visti con degli speciali visori, gli Oculus, e permettono allo spettatore di vivere all'interno del film. È una cosa nuova, insomma, che sta andando in questi proprio ultimi anni ed è un esperimento che abbiamo deciso di fare quest'anno in collaborazione anche con il River Film Festival. Quante sono le opere che presentate in questa edizione? In questa edizione sono 71 i finalisti, su oltre 1200 che hanno partecipato alle selezioni. Com'era nato tutto? Visioni Corte nasce da una grande passione per il cinema, laddove però la nostra idea era quella di far conoscere il nostro territorio e fondere cultura, in questo caso cinematografica, con il turismo. Noi siamo in un posto bellissimo che è il Golfo di Gaeta, che però insomma per alcuni versi, soprattutto un po' di tempo fa, era abbastanza poco conosciuto. Noi poi nello specifico nasciamo a Minturno, che è un vero e proprio diamante grezzo, per cui l'idea era quella insomma di poter coniugare questa passione per il cinema con la passione per il posto in cui viviamo. Poi l'anno scorso ci siamo spostati a Gaeta, che comunque è sempre all'interno del Golfo, ma insomma sostanzialmente la mission è rimasta la medesima. Sono previsti anche come ospiti gli autori e le autrici dei lavori? Sì, assolutamente. Noi ogni anno i finalisti sono tutti quanti invitati a venire a presenziare per raccontare qualcosa in più del loro film, che è sempre un momento molto bello perché il pubblico poi scopre tante cose, capisce anche varie dinamiche, quindi questo è sempre molto, molto arricchente. È una bella occasione in più per i registi, perché chiaramente i festival nascono per far circolare queste opere, per far conoscere quindi questi talenti, ma allo stesso modo è un'occasione in più per il pubblico di capire anche come funziona questo mondo e anche quali possono essere le differenti tematiche o anche le differenze dinamiche per cui nasce un film, e come si sviluppa soprattutto. I luoghi e gli orari del festival? Dunque, il festival inizierà questo sabato in un bellissimo ex ospedale medievale, la Gaeta Vecchia, Gaeta Medievale appunto, che è l'IPAB Santissima Annunziata, dove cominciamo con la prima mostra italiana dedicata a Sergio Leone nel anno in cui ricorre l'anniversario della nascita e l'anniversario della morte. E sarà lì per tutta la durata del festival, quindi fino al 28 di settembre. Mentre lunedì 23 iniziamo con i cortometraggi in gara al Cinema Teatro Ariston di Gaeta e poi ci sono anche una serie di altri incontri che faremo. Domenica, ad esempio, avremo il critico Italo Moscati che presenterà il suo ultimo libro proprio su Sergio Leone, Quando i fuorilegge diventano eroi, e lo faremo allo Yacht Club, che è sempre un'altra location bellissima di Gaeta. Tutto a partire dalla mattina o pomeriggio e sera? Pomeriggio e sera, sì, anche perché ormai insomma le scuole sono cominciate, quindi diamo possibilità anche ai ragazzi di poter venire, ma abbiamo previsto un matinée proprio con le scuole mercoledì 25, con la proiezione speciale del film L'eroe di Cristiano Anania, un giovane regista romano, questa è la sua opera prima, dopo aver avuto molti successi con vari cortometraggi, per cui siamo felici di ospitarlo, e farà questo incontro molto interessante con i ragazzi al Cinema Teatro Ariston. E i riferimenti web per tutte le informazioni e i dettagli? Dunque, noi abbiamo il sito internet visionicorte.it, abbiamo ovviamente la pagina su Facebook, Twitter, Instagram e anche il nostro canale YouTube, Visioni Corte, quindi facilissimo da trovarci. Ottava edizione di Visioni Corte, International Short Film Festival, a Gaeta dal 21 al 28 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gisella Calabrese. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie mille.